giustizia è di questo mondo? I Jedi non la pensano allo stesso vostro modo. D'altronde, i Jedi cosa sono? Se non gli inventori di computer che hanno permesso ai piastrellisti di assumere orsi rosa. Orsi rosa. Asfaltare una strada non è una cosa facile, ed è per questo che la giustizia non è di questo mondo. Riferimenti geopolitici mondiali mi informano che mai nessuno potrà conoscere il nome di se stesso. Perché cosa c'è di più sconosciuto di un architetto per esterno? Cuscinetti di dolore sopra la nostra testa incombono, quasi come quei pochi produttori di pianta grande, volevo dire. La giustizia non è di questo mondo, altrimenti nessun pilota di Formula 1 chiaverebbe a sangue con la propria madre. Oh, Strunz, tu stai spattendo! Oh, Cataloma! Non ci capito, da ci vista lontano, ma ti una faccia cazzo che si trova a Porto San Martino! E mangi questa pelle cazzo, Strunz! Cosmo, ma tu sei tornato a Strunz, fa un che pizza, che costume c'è! Ma poi andare a trovare, secondo me, ci sta solo un problema, è che capisci come mantenere! Cioè, io ci trovo qualcuno a rete a me come mantenere, ma non ci sta nessuno, e mentre dico, voi la lasciamo messaggio! Lo sfondi. Dai, fuori casa. Litigio Empire State of Mind Cos. Vado, Jorn. Se va a piazza, medaglie d'oro. Pantano. Sotto la mia bacchetta c'era scritto in trans, ma non so tenere manco un 4 quarti perché sembro le palle. Quasi come. No, no, aspetta, questa. Oh, la trovo! Oh! Dosetti Gian. Chiaramente Dosetti Gian. Oh, vai, scusate. Giustizia, dicevo. Non è una cosa di questo mondo, anche se potrebbe esserlo. Beh, che un videogioco non potrà mai e poi mai governare gli Stati Uniti. Stupidità ovunque. L'altro giorno camminavo, leggevo una guida di visto una vecchia che si lamentava perché il suo vicino casa era stitico e quando lo andava a trovare le offriva il tè e scorreggiava come una caffettiera degli anni 30. Non è un problema, diceva lui. E invece sì, diceva la vecchia. La prossima volta ti offro un Kindle scaduto. Buono, è già trash con modi in tamutanda che sono diventato Martin Luther King con quanto è mio. Accendiamo strani led. Non è questo forse il nostro mestiere. Accendiamo strane passioni nei confronti dei pantofoli. Quelle degli infermieri che poi camminano per le corsie come se fossero pressioni alla moda. Vanno a fottere il cellulare a basso volo. Vabbè, è fatto batterista la mia. Ma spacca, va spacco. È fatto volo. Mantenite. Non è cosa di questo mondo. Semplici motivi. Io non voglio.